La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci qua, ben ritrovati all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea, puntata importante, perché fra poco, lo dico subito, sarà qua con noi uno straordinario ospite, Pierfrancesco Favino, che verrà a trovarci per raccontarci il suo Bettino Craxi in Hammamet di Gianni Amelio. Ma puntata che verte anche su altri film importanti, anche in odore di Oscar, per esempio Piccole Donne, puntata che come sempre regalerà i film più belli della stagione, e oggi giochiamo con il nostro game davvero con un film straordinario, puntata di svolta in qualche modo, perché diciamo che ormai davvero le feste di Natale e di Capodanno e dell'Epifania sono finite anche cinematograficamente, è di svolta in questo senso, arrivano nuovi film in sala, stanno ancora andando molto forte, soprattutto nel weekend, i film che hanno dominato la stagione per quanto riguarda appunto le feste di fine anno, Checco Zalone ormai veleggia oltre i 40 milioni di euro, Il Primo Natale e Pinocchio, Ficarra e Picone e Matteo Garrone Benigni, 14 milioni, Ferzan Özpetek col suo La Dea Fortuna, più di 7 milioni di euro, insomma il cinema italiano è andato molto molto bene durante queste festività di fine anno, speriamo che chiaramente l'abbrivio lo portino anche avanti fin come Hammamet, che merita ovviamente questa attenzione, ma finché è partito molto bene anche grazie, come dicevo, alla grande performance di Pierfrancesco Favino che fra poco sarà con noi. Ma noi cominciamo subito a entrare, come dicevo, in atmosfera di grandi film americani. È stato attesissimo, è un libro di crescita per generazioni e generazioni di bambine e di ragazze. Piccole Donne diventa di nuovo film con la chiave moderna di Greta Gerwig. Ce ne parla Chiara Pizzimenti. Joe, ti va di ballare con me? Non posso, perché... Perché cosa? Non lo dirai? Non lo dirò. Mi sono bruciata il vestito lì, vedi? E Meg mi ha detto di stare ferma, così non si nota. Forse è un'idea per rimediare. Quel vestito bruciato, perché Joe ama stare vicino al fuoco, e il ballo che ne segue sono uno di quei passaggi di Piccole Donne che ogni lettore del romanzo ricorda, come l'incipit, Natale non sembrerà Natale senza regali, i capelli di Joe tagliati per aiutare la famiglia, le mani vuote del professore che sono riempite da quelle della protagonista nel finale di quello che per gli editori italiani è Piccole Donne Crescono. Non serve raccontare la trama di questo film, è universalmente nota, come i romanzi di Louisa May Alcott, già portati al cinema almeno 7 volte e spesso con la meglio gioventù del tempo a recitare. Greta Gerwig segue il solco del passato, solo in questo sceglie i suoi feticci e il meglio della gioventù cinematografica per le sorelle March, Saoirse Ronan e Jo, Florence Pugh, Amy, Emma Watson, la giudiziosa Meg, Eliza Scanlon, la fragile Beth, Timothée Chalamet, Lori, Laura Dern è la madre, Meryl Streep, zia March, poi prende tutt'altra via rispetto al passato. Il fatto è che io sento, ecco, che le donne, loro hanno una mente e hanno anche un'anima, così come un cuore. E hanno delle ambizioni e hanno talento, non solo la bellezza. E sono così stanca delle persone che dicono che l'amore è l'unica cosa a cui posso aspirare. Sono stufa di sentirlo. Ma sono anche tanto sola. È un film che si potrebbe dire femminista, che sottolinea i muri che ancora esistono per le donne, ed è anche un'educazione di genere quella a cui si assiste seguendo la pellicola, che non è fatta solo dei libri ma anche della biografia della scrittrice abolizionista sostenitrice del voto per le donne, il Single per scelta, che avrebbe voluto tale anche la sua eroina Jo, obbligata al matrimonio dall'editore. Da ragazza volevo essere Jo March, ora voglio essere Louisa May Alcott, ha detto la regista, e nel film lo racconta, tanto che la nascita del libro di Jo è come quella di un figlio. Il sentimentalismo dei film passati se ne va, vincono sorellanze e amicizie alla pari fra ragazzi e ragazze, se ne va anche la narrazione cronologica di quelle pellicole, le ragazze sono già adulte e il passato ritorna e se ne va di continuo nella costruzione parallela del racconto, giusto come principio perché non aveva senso l'ennesima trasposizione letterale del testo, però questo continuo rincorrersi di flashback tende a confondere anche i più preparati fra i lettori e a dare poco risalto ad alcuni episodi chiave. Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Piccole Donne di Greta Gerwig, con questo cast femminile straordinario, anche proprio per la capacità di incrociare una generazione di attrici, Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh e questo Timothée Chalamet, che è diventato davvero come il prezzemolo, cioè non si può più fare un film senza il protagonista lanciato da Guadagnino con Chiamami col tuo nome e poi ultimamente riconsacrato da Woody Allen in Un giorno di pioggia a New York. Noi giochiamo insieme, anticipiamo ricordiamo di qualche istante il nostro DVD Game, perché fra poco c'è con noi Pierfrancesco Favino, prima traccia del grande film misterioso di oggi. Ehi, Rubin, vieni qui. È la ragazza della Valle delle Bambole. Patty Duke? No, quell'altra. Quella di Peyton Place? No, quell'altra. Quella che finisce a fare i film sporchi. Si parla di un'attrice, è un film che ha e parla molto di cinema e di attori, un film che ha contrassegnato innegabilmente la stagione cinematografica passata e che adesso arriva in un video. Ci sono due Blu-ray che vi aspettano, se l'avete già indovinato scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it. Adesso, linea la viabilità, sta arrivando, lo vedo fuori qua dal nostro vetro, dalla regia, Pierfrancesco Favino per raccontarci il suo Bettino Craxi in Ammamet. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24, la passione si sente anche in podcast. La Rosa Purpurea. I denari per la politica sono come le armi per la guerra. Mi spiace deludere qualcuno, ma la democrazia ha un costo. Entrano nel mio ufficio, frugano nei registri, cercano prove. Finanziamenti illeciti, chi l'ha mai negato? Ma non tutto serviva per l'apparato. Ma qualcosa ci restava attaccato alle dita. Siete voi che lo candidate? Un giudice che vi poteva inquisire e non l'ha fatto. Io non parlerò mai, saranno altri a farlo, tanti altri. Le suggestioni sonore di Ammamet, come annunciato, è venuto a trovarci Pierfrancesco Favino qui in trasmissione. Ciao Pier, grazie di essere qui alla Rosa Purpurea. Ciao, grazie a te. Grazie davvero, l'uomo del momento. Oddio. quello che insomma impersona in questo film di Gianni Amelio, la figura ingombrante, gigantesca sotto tanti punti di vista, grande di Bettino Craxi, perché è stato un uomo politico che ha segnato sicuramente un'epoca, nel bene e nel male. Questo film di Gianni Amelio mi sembra cerchi, coi 20 anni che sono passati dalla sua morte, di fare un po' il punto e di cercare di portarlo fuori in maniera un po' più laica, diciamo, no? dal limbo nel quale era stato un pochino segregato. Ma questa figura credo che non sia propriamente possibilità di un film raccontare la storia d'Italia di un periodo così lungo e così controverso come dicevi tu, ma sicuramente quello che un film può fare è prendere la storia, la realtà di un uomo, raccontarne le sue emozioni e fare drammaturgia di quella che è poi stata la vicenda reale. Certo. È quello che ha interessato a Amelio fare. Certo. Cioè raccontarci anche al di là dell'ingombro politico, al di là dell'ingombro storico, dell'avvenimento storico, che uomo c'era lì dietro e come ha vissuto lui quel momento finale della sua vita. Soprattutto questo racconta il film. La clip del trailer, oggi lavorando un po' alla preparazione dei materiali, notavamo che ha uno spirito più politico, chiaramente si deve appoggiare anche a qualcosa che la gente ha nelle orecchie, negli occhi, ma nel vissuto. Ma io credo che, conoscendo adesso un pochino di più l'uomo, e la politica per Craxi sia stata qualcosa di più che non come possiamo intenderla oggi. La politica per Craxi è stato un modo di guardare la realtà, di vedere la realtà, come per te il giornalismo, ma come per me la recitazione, cioè attraverso quello che facciamo noi vediamo il reale e cerchiamo di trovare delle risposte. Ecco, uomini come Craxi lo cercavano nella politica, tant'è vero che è stato uno dei più grandi dolori da un certo punto di vista è stato non poterla agire dal punto di vista personale dell'uomo, e sono persone che hanno vissuto 50-60 anni della loro vita dentro le scuole di partito, sono persone che si sono formate come individui pensando che il mondo fosse leggibile attraverso la politica, che in realtà di per sé non è uno strumento negativo. Assolutamente, no, necessario e nobile anche. Esatto, e c'è quella nobiltà del guardare alla politica come la possibilità di trovare soluzioni al vivere, certo, insieme delle persone. Ecco, quella era la nobile aspirazione politica di una serie di persone. Certo. Credo che, indipendentemente dalla sua storia, l'avesse molto dentro questa necessità. Grazie. Ecco, Gianni Amelio, ricordiamola a chi non ha ancora visto il film, anche se sono tanti quelli che si sono recati in sala nei primi giorni. Gianni Amelio si concentra sugli ultimi mesi di vita di Bettino Craxi nella villa di Hammamet, che dà il titolo, che è quella vera, tra l'altro, della sì, famiglia Craxi. In parte sì, ci sono delle cose che sono state girate altrove, ma sempre da Hammamet. Certo, e comunque grande suggestione, devo dire, in questo senso, e analizza, come diceva Pier Francesco Favino, molto l'uomo, i rancori anche, un po' di livore che gli è rimasto addosso, ma anche il pensiero. C'è una frase che trovo straordinaria, che ti dà la statura del personaggio, secondo me, quando a un certo punto Bettino Craxi, che non viene mai nominato, né Bettino né Craxi, in 126 minuti di film, ma è una scelta di Gianni Amelio che l'ha spiegata, la figlia, che è evidentemente Stefania, si chiama Anita, il figlio è Bobo ma non è mai chiamato Bobo, però c'è una frase di Craxi nella quale dice a un certo punto i tempi, il nuovo che avanza ha sostituito la parola popolo con la parola gente, perché alla parola popolo deve corrispondere il noi, alla parola gente può corrispondere io. E questa l'ho trovata, per esempio, una riflessione di una profondità che manca molto alla politica contemporanea. Guarda, profondità è anche molto quello che io ho scoperto attraverso questo viaggio. E la cosa che mi ha molto stupito è che nel momento in cui ho ripreso questo materiale, sono andato ovviamente a risentirmi i discorsi in Parlamento, non solo i suoi o quelli dei congressi, e mi ha fatto impressione riconoscere che io conoscevo e sapevo e avevo memoria di quel modo di parlare e come velocemente quella cosa si sia vaporizzata nella nostra storia, come siano cambiati in così poco tempo, tutto sommato, non solo la retorica, ma che cosa probabilmente voleva dire e vuol dire la politica per noi. Quanto per noi, per esempio, a 18 anni io volevo far politica, perché avere un'idea di impegno politico significava essere qualcosa, certo, no? Avere un'identità. Oggi, certo, ai ragazzi questa cosa non viene assolutamente in mente, ma non credo sia colpa dei ragazzi. No, ovviamente il mondo politico è cambiato, la politica è cambiata, l'importanza della politica nella nostra vita è cambiata, e dobbiamo guardare in questo caso a quando era quella cosa lì. Certo, assolutamente, ed è quello che fa il film, che è anche un film, Pier Francesco, su un uomo di fatto di potere, cioè è un uomo di potere che è costituito esso stesso dal potere, tanto che non riesce ad abbandonarlo neanche quando in realtà intorno a lui il potere non serve più. Il Bettino Craxi che tu interpreti è un uomo che ordina, non è un uomo che discute, ordina costantemente, ordina fai così, vai a fare quello, è un uomo che impartisce ancora ordini. E come hai lavorato a questo equilibrio, cioè a rappresentare un uomo che nel momento finale della sua vita ancora si tiene forte quella natura del potere che ha dentro di sé? Beh, la leadership di Craxi penso che fosse una leadership naturale, innanzitutto. Credo che sia stato obiettivamente un uomo che è nato con l'ambizione di essere questo, però anche con la possibilità di esserlo, e probabilmente non ci rendiamo conto di che cosa voglia dire stare all'interno del mondo della politica se non lo conosciamo, lambendolo un pochino, e mi sono reso conto che non potrei mai farlo, per esempio. Per cui una delle difficoltà è stata comprendere questa leadership, che cosa voleva dire. Dopodiché una cosa secondo me interessante, e forse la cosa che riesco meglio a fare, è cercare di capire che cosa c'era dietro a questo, quale necessità emotiva spingesse un uomo che non ha più potere a ipotizzarsi ancora capace di dare ordini, per esempio, e che cosa nel dare ordini ti ritorna. Perché una cosa molto bella secondo me nel film è la presa di coscienza, l'arco di presa di coscienza del fatto che piano piano questo potere non è più a che fare solo col potere esterno, esteriore, ma a che fare col potere sul corpo, a che fare col potere, certo, nelle relazioni, del rendersi conto dei propri bisogni. E questo non ha a che fare solo con un uomo, ma con un'intera generazione. Penso, a me è venuto molto in mente mio padre, è venuto molto in mente mio suocero, che avevano delle modalità identiche, che magari per non andare in imbarazzo rispetto alla propria emotività, scavalcavano quelle emotività dando ordini piuttosto che negandoti un essendo abbraccio. Bruschi, come quando sale le scale per andare nell'hotel e lascia la mano stizzito, sì, no? Sì, della però figlia. In quell'hotel dove incontrerà questa amante che è stata così importante nella sua vita, non vuole andare, come un bambino ha paura ad affrontarlo, e allora però per riprendere forza con se stesso ha bisogno di fare un gesto che è un gesto da maschio. Quella maschilità secondo me è molto interessante e tutto sommato mi permetto di dire anche piuttosto tenera. Certo. Io penso che questo sia un film per le donne, so che è bizzarro dirlo, interessante, ma credo che all'interno di questo film ci sia un rapporto padre-figlia che qualsiasi donna riconoscerà anche con una certa sofferenza. Piove? No, è una bella giornata. Allora perché mi sento così male? Che cosa ti senti? Tuo fratello deve fare un altro figlio. Ha appena avuto il primo. Non basta uno. Aiutami a convincerlo, se glielo dico io è peggio. Bisogna fare almeno due figli. Perché se te ne muore uno, almeno hai l'altro. Restare senza figli è la cosa più atroce. Ecco, Pier Francesco, in questo dialogo c'è anche il Craxi, secondo me il Craxi bambino, cioè il Craxi che porta dietro di sé il ricordo anche della guerra. Se ti muore un figlio, quasi come fosse una cosa che nella vita devi prendere in considerazione, ne hai sempre un altro, bisogna fare figli. Ecco, l'eredità, la legacy, come direbbero gli americani, è anche un po' un tema di questo film. Per me è molto importante. Io penso, ho sempre pensato che una delle preoccupazioni di Craxi fosse per il futuro, non solo dei suoi figli, ma proprio per il futuro. Tant'è vero che ci sono tantissimi brandelli visibili di discorsi di Craxi già ad Amma Met, in cui con una lucidità decisamente spiazzante, visto quello che è accaduto poi futuro, racconta quello che stiamo vivendo in questo momento. Però questo fa parte del mondo della politica, per esempio, di cui parlavamo prima, la capacità di sapere agire per una, so che è bizzarro dirlo, però per un bene collettivo. E allora questa cosa all'interno della politica esiste, c'era una progettualità. Sicuramente però poi c'è una preoccupazione personale, e la cosa che dici tu è verissima, io l'ho molto sentita. L'infanzia di Craxi, che non è stata un'infanzia felice, è stata un'infanzia in collegio con dei genitori, particolarmente una madre che lui ricorda, ma che ricorda con una certa severità, e con un padre che l'ha sempre in qualche modo messo in un'ottica di giudizio, anche lui. Certo. Quindi mio papà era così, mio papà era un uomo che orfano si è dovuto inventare un'idea di essere padre, e probabilmente per una generazione che non ha avuto carezze, l'idea del futuro dei figli era crearlo in loro la tempra, certo, e non l'ascolto. Sai cosa mi diceva mia mamma quando ero grande ormai? Dice: i figli si accarezzano solo di notte mentre dormono. Esatto. E questa cosa qua però, è generazionale. Allora, se ci stacchiamo, come io ho fatto, dalla visione del figlio e proviamo ad entrare nella visione del padre, a che cosa rinuncia una madre che vuole e però pensa non sia educativo fare quella carezza di giorno mentre il bambino è sveglio e quindi la sa? A che cosa rinuncia di sé? Quanto questo la rende sola? Quanto questo la mette in un angolo rispetto al proprio bisogno invece di avere quell'amore? E se poi quella cosa lì diventa abitudine, cosa fa dentro di te? Come cambia il tuo respiro? Come cambia il tuo sguardo nel mondo? Verso il mondo? Quasi cosa pensi sia giusto o sbagliato per gli altri e cosa ti togli a te stesso? Di fondo io credo che ogni leadership sia veramente destini l'uomo a una grandissima solitudine. Non lo vedi che tutto ci sta crollando addosso? Questi qua che ti battono le mani sono approfittatori, sono quelli che salgono sul carro del vincitore. Perché non sei salito sul palco a dirle queste cose? Io non parlerò mai. Saranno altri a farlo, tanti altri. E che cosa avranno da dire secondo te? Te lo lascio immaginare. Che sei venuto a fare qua? L'anima bella. L'angelo salvatore, no? Io lo so chi sei. Sei un ometto che mette le mani avanti. Sono le mie dimissioni. Non è a me che le devi dare. Sei tu che mi hai messo là. Sta attento a quello che fai. Mi stai minacciando. A casa, Vincenzo. Riposati. I soldi dovresti averceli, mi pare. E ecco il Craxi sprezzante, no? Il Craxi politico, pubblico, il Craxi nell'inizio del film, quando lo vediamo trionfare al congresso socialista dell'87 e sapendo, poi il film a un certo punto ce lo farà capire, che forse lì comincia invece la parabola. C'era chi l'aveva messo in guardia, no? Ed è un personaggio importante del film. Sì, che è interpretato da Giuseppe Cederna, seppur in un brevissimo, ma fondamentale. E soprattutto con un figlio che poi ritorna, sì. che è il personaggio immaginario, no? Quasi la coscienza critica di Bettino Craxi. Beh, quasi proprio, sì, la coscienza non solo critica, secondo me, la coscienza basterebbe, credo. Io questo lo trovo una cosa molto bella. Io so che in questo momento si sta molto parlando del fatto che le persone vorrebbero vedere quella storia lì, vorrebbero sentire parlare della vicenda storica, della vicenda giudiziaria. Ecco, io non so perché, forse perché faccio questo mestiere, ma io sono molto più intrigato dalle ombre di cui stiamo parlando in questo bel dialogo, che non da ciò che effettivamente solo un giudice potrebbe raccontarmi. Forse quello non è il luogo del cinema. Il luogo del cinema forse è tentare di immaginare e ipotizzare quelle che sono le ombre degli uomini, quello che genera ciò che gli uomini fanno o gli errori che fanno grazie a quelle ombre che non sanno neanche spiegarsi. Soprattutto quando, come hai detto giustamente tu, sono come dire simboliche di una generazione, di un modo di essere uomo maschio, di essere uomo di potere, di essere leader. Guarda, Craxi era indubbiamente un uomo dell'Ottocento e io penso che questo sia un film profondamente novecentesco. Per cui si deve andare a vederlo, secondo me, per chi vuole ovviamente, ma penso che valga la pena vederlo. Perché al di là della pagina storica che riguarda Craxi, secondo me è veramente un film che racconta la fine di un momento. Dopo quel momento lì, la storia sarebbe in ogni caso cambiata, grazie alla caduta del muro e a tante cose, non solo dal punto di vista politico, ma noi siamo infatti velocissimamente diventati altri. Fino a quel momento lì c'erano delle cose che potevamo leggere, che continuiamo a leggere, te lo dico io, cioè io leggo mio padre, vuol dire che comunque quella cosa lì ha accompagnato tante generazioni. Mio padre è un uomo più anziano di Craxi. Quello che fa a me è domandarmi rispetto a adesso io da padre, per esempio, come posso agire con le mie figlie, che cosa veramente quella legacy di cui parlavi diventa per me. Ma questo non vuol dire non trattare Craxi, questo vuol dire secondo me cercare all'interno di uomini come Craxi la luce di quello che noi possiamo fare oggi. E allora Pier, se ci regali ancora qualche minuto. Ma io con gran piacere stare con te. Noi diamo la linea alla dovuta regia e poi torniamo insieme perché dobbiamo parlare di giovani, che è un tema che hai affrontato, e anche un po' più della parte tecnica di questa tua interpretazione straordinaria. Piacere, okay, grazie. Fra poco. Era inevitabile. L'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Mi hanno portato tipo anche una fascetta, quello me lo dovevo mettere quando uscivo di casa, per significare io appartengo a loro. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate, vite che aspettano solo di essere raccontate, anche grazie alle vostre segnalazioni. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Ma quindi tutti convocati anche nel weekend? Anche la domenica dopo le partite, dopo le corse, le moto, le auto, beh, poi arriviamo noi. D'altra parte sono quasi 20 anni che vi raccontiamo lo sport. 20 anni, come eravamo giovani. Siamo Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E tutti i convocati weekend vi aspetta ogni domenica a partire dalle 17, naturalmente in diretta su Radio 24. La rosa purpurea. Qualcosa comincia a muoversi, ma ci vuole tempo. È normale. Detto in politichese, papà deve morire. Sarebbe la soluzione perfetta, che toglie tutti dall'imbarazzo. Ma stavolta non l'avranno vinta. E mentre tu sei qui che fai la figlia amorosa, io sto combattendo per lui. Ci mancherebbe altro, si tratta di tuo padre. Perché non mi parla? Ma lo sai com'è fatto? È il suo modo per dirti quanto gli manchi. Il dialogo fra Bobo e Stefania, oppure non Bobo e non Stefania, del film di Gianni Amelio, a Mamet, ne stiamo parlando con Pierfrancesco Favino, che è qui con noi in redazione alla Rosa Purpurea. Pier, parlavamo di giovani, parlavamo di eredità. Questo è un dialogo fra figli molto diversi. Una che si è curata e si è preoccupata fino alla fine proprio di poter dare un seguito alla vita del padre, in questo momento proprio alla vita del padre, alla vita biologica, perché già è un Bettino Craxi malato quello che intercorre in quel momento. Bobo forse più alla sua visibilità politica, all'immagine che di sé era rimasta distrutta nelle macerie post Mani Pulite. È un film, secondo me, che sarebbe importante far vedere anche ai giovani di oggi, non i giovanissimi magari, ma insomma i giovani dai 20 anni in su, dai 20 ai 30, ai 35 anni, che non c'erano in quel momento e forse quel mondolino l'hanno proprio sentito. Però non è facile. Non è facile perché appunto la figura di Craxi è una figura che è rimasta sepolta per 20 anni, e perché non c'è forse quella parte eroistica o così di tempra e di soprattutto di immagine forte che, per esempio, faccio un esempio con un tuo grande successo recente, poteva avere la figura di Tommaso Buscetta, che aveva un suo lato, diciamo così, che andava oltre, no? il racconto, diciamo, di genere. Ecco, come si fa a far entrare un 20-30enne in sala a vedere Mamet? Ma forse con le cose che stavo dicendo prima, nel senso che per quanto io possa tentare di essere un padre moderno, rimango un padre. E mia figlia di me avrà e continuerà ad avere questa altalena di emozioni che avranno a che fare con l'idea che io non debba mai negarle l'immagine eroica che lei vuole avere di me, e al contempo probabilmente doversi scontrare anche con le mie debolezze e con quello che io non sono. Ecco, questa cosa c'è nel film, c'è anche nel rapporto tra figlio e padre. Detto ciò, io penso, anche stimando enormemente i giovani e la loro curiosità, e Buscetta ne ha dato riprova, forse sì, c'era un personaggio di genere, ma attenzione, perché non diamo per scontato che il film di Bellocchio fosse un film facile da leggere, anzi, i ragazzi sono molto più curiosi di quelli che immaginiamo. Certo, non credo che interessi obiettivamente loro la vicenda giudiziaria, così come interessa a noi e come ha interessato un'intera generazione. Io credo che questo film sia un film che prende una figura realmente esistita e approfitta della storia di questa persona per raccontare che cosa succede agli uomini nel momento in cui, pur di grandissimo potere, lo perdono e fanno conti con la loro vita. Ecco, la vita di fondo è quello che penso che cerchiamo quando andiamo a vedere un film. In questo caso c'è un rapporto con di questi giovani, di questi ragazzi, che tentano in tutti i modi di avere un contatto con quest'uomo che è molto complicato da raggiungere. Ecco, qualsiasi padre e qualsiasi madre sono complicati da raggiungere in quanto uomini e donne. Se li manteniamo uomini e donne, dobbiamo noi smettere di essere figli. Ecco, questo è il percorso che forse i personaggi di Anita e Bobo, nel caso specifico, ma fanno all'interno del film. Ecco, Pier, si è parlato molto dell'aspetto, appunto, tu sei Craxi, uno vede, dice, perché ti muovi come lui, perché hai le mani, le dita si muovono come le muoveva lui, hai quella visione quasi verso un punto dell'orizzonte che per Craxi era il futuro, quel futuro di cui parlavi prima, verso lui cui guardava. Però, secondo me, la cosa che poi fa ancora di più il salto di qualità è quello che si vede dai tuoi occhi. Beh, non sarebbe bastato quello. Ecco, se no è tale quale show. Allora, esatto. Invece qui c'è... Con tutto il rispetto, no, è complicatissimo. Perché sono linguaggi diversi. Invece tu hai buttato dentro qualcosa di uno sguardo che guarda dentro il Bettino Craxi degli ultimi mesi, preoccupato oltre quello che lui vuol far vedere. Ma a me quello serviva. Cioè la maschera, il farmi crescere le unghie, perché lui aveva le mani più lunghe delle mie, per cui avere, guardandole, non avere la sensazione delle mani corte, il muoverle in quel modo, il camminare in quel modo, respirare in quel modo, sono state tutte delle porte per me, delle cose che mi hanno fatto entrare all'interno possibilmente dell'anima di quest'uomo, che sembra essere un posto dove non vogliono entrare le persone. Un posto oscuro, diciamo. Beh, un posto oscuro, un posto che a volte alcuni immaginano non sia esistito addirittura. Invece per me era molto interessante per capire che cos'è, perché questo mi piace del mio lavoro. la possibilità di andare a capire che cosa muove dentro le persone. Certo. Ed era anche la cosa, ed era il mio lavoro, perché Andrea Leanza, Federica Castelli, Massimiliano Duranti, che sono truccatori e parrucchieri del 5 ore al giorno, 5 ore e mezza, sì, per me ma anche per loro, certo. Hanno fatto un lavoro straordinario. Maurizio Milianotti con i suoi costumi ha fatto un lavoro straordinario, e tutta quanta la troupe ha fatto un lavoro meraviglioso. Però poi ciò che colpisce un uomo che va a vedere un film è un uomo, certo. Non è l'immagine che posso trovare a casa tranquillamente se apro il computer. E allora che cosa c'è dietro quell'immagine? Questo è quello che mi ha preoccupato. Sicuramente tutto il percorso di preparazione, anche, devo dire, divertente, perché se no sembra che... Certo. Insomma, invece io avevo dei passaggi molto divertenti durante il trucco. A un certo punto ero Aldo Giovanni e Giacomo, poi ci ho avuto Mastro Lindo, poi ci ho avuto Frankenstein Junior, dei momenti Platinette, mi è stato detto. E, ecco, in questi passaggi qui, nel momento in cui si arrivava da quell'altra parte, c'era un abbandono di me. E se non avessi avuto quello non sarei forse riuscito ad entrare lì. Però in quel luogo lì io ci ho trovato, per esempio, ci ho trovato mio padre, ci ho trovato mio suocero, ci ho trovato me, ci ho trovato quella legacy che riguarda me, e cioè quell'ereditarietà di cui parli tu. Certo. La paura che possa succedere questo, come sarà domani quando io magari perderò l'uso proprio del corpo, io che sono Pier Francesco Favino, capito? Che è l'omaccione, certo, che porta in spalla le sue figlie, quando non potrà più farlo. Certo. Avrà paura di farlo vedere alle proprie figlie o no? E avere la sensazione che quindi questa cosa qui non funziona, questa macchina non funziona più come prima. Che cosa mi farà sentire? Che paura dovrò affrontare? Ecco, l'oggetto di questo film è questo. E approfittiamo della figura di un uomo così importante, perché se accade a lui può accadere un po' a tutti. Certo. Senti Pier, venendo fuori da due film così appunto mimetici, usiamo questa parola, come ti rapporti? Adesso ci dirai magari se c'è qualcos'altro che uscirà prima della fine dell'anno di sì. Tuo, ma come ti rapporti a tornare con la faccia di Pier Francesco Favino e a fare l'attore che non è mimetico? Beh, insomma, innanzitutto dormo qualche ora in più, che male non mi fa dal punto di vista proprio della salute fisica. Secondo, non posso, non è mia intenzione specializzarmi in questo senso. C'è sempre la figlia di Cavour da fare, ricordo. Sì, infatti stiamo già lavorando. No, sto scherzando, ovviamente. No, però insomma, finito questo, a uscire da questi film mi hanno aiutato altri film. A febbraio mi si vedrà nel film di Gabriele Muccino con la banda di formata da Kim Rossi Stewart, Claudio Santamaria, Michaela Ramazzotti e ovviamente Gabriele. Ho coprodotto un film della regia di Claudio Noce che si chiama Padre Nostro, che anche qui ha un tema padre figli molto importante. I protagonisti sono due bambini. E poi sto girando una commedia che ogni tanto fa bene anche a noi. Però, anche perché quando le hai fatte sono state molto divertenti. Ma io mi diverto moltissimo. Il tentativo è proprio questo. Il tentativo comunque è di non fermarmi in un... come dire, di non cercare una specializzazione se non quella del mio, certo, mestiere, e avere la possibilità e il privilegio di riuscire a fare cose diverse, anche perché le persone hanno voglia giustamente di vedere cose diverse, ma perché io ho voglia di fare cose diverse. Assolutamente, anche se appunto due interpretazioni così secondo me segnano proprio una carriera. Cioè, quando parleremo di Pier Francesco Favino fra 20 anni, che sarà il più premiato attore di Hollywood, certo, diremo: ah, ma quando ha fatto Buscetta e Craxi uno dietro l'altro, lo sapevamo, si era visto già. E nel frattempo io starò lì che non potrò portare le bimbe in spalla. Sei ancora molto giovane. Per salutarci Pier, ringraziandoti di questa bellissima chiacchierata, come avrebbe, non so se lo vuoi fare questo, però se lo vuoi fare fallo, come avrebbe salutato il pubblico della Rosa Purpurea Bettino Craxi? Innanzitutto va chiarito un aspetto. Il mio saluto, sempre che di saluto si possa parlare, è chiaramente un arrivederci. Questo arrivederci non riguarda solo la mia presenza fisica, questo arrivederci riguarda la mia presenza all'interno di ogni ascoltatore, e devo dire che l'andamento di questo film sta dicendo esattamente questo, sta rendendo chiaro quanto Bettino Craxi sia ancora all'interno di ognuno di noi. Eh beh, insomma, più di così, ragazzi, partono gli applausi. Dall'altra parte del vetro, Pier Francesco Favino, La Rosa Purpurea. Grazie davvero. A voi. Grazie. Pier Francesco Favino, lo splendido protagonista di Bettino Craxi in Amma Met. Noi però andiamo avanti perché la trasmissione ha ancora molte cose da dirvi e da darvi. Per esempio, la seconda traccia del film misterioso di oggi. Cliff qui ha la parte più dura. È così che descrivi il tuo lavoro, Cliff? Cioè che ho la parte più dura? Sì, e me ne vanto. E allora mi concentrerei sulla parola parte, che fa parte molto di questo mestiere, e sul fatto che è un dialogo fra due. Se avete indovinato di che film si tratta, un grande, grandissimo film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure, @radio24.it. Fra poco vi sveliamo il film misterioso di oggi. Adesso, linea alla viabilità, fra poco parliamo di un altro film, si intitola City of Crime. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agritexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo. Alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea. Come annunciato, cominciamo subito con il parlare di un altro film, di quelli che sono arrivati in sala in questo secondo fine settimana di gennaio. È un film di genere, uno di quei drammoni polizieschi americani. Si intitola City of Crime. Che è successo? Un giorno orribile. Quanti poliziotti? 8. Perché erano qui? C'era una rapina in corso. Sparano! Un poliziotto a terra! Se non li becchiamo nelle prossime 3 o 4 ore, spariscono. Come pensi di fare? Chiudiamo l'isola. 21 ponti collegano Manhattan. Sbarrateli. 3 fiumi, chiudeteli. 4 tunnel, bloccateli. Fermate i treni. Isolate le linee metro. E poi inondiamo l'isola di blu. E allora, avete sentito le suggestioni sonore di City of Crime di Brian Kirk con Chadwick Boseman e Sienna Miller protagonisti, la storia di una grande caccia all'uomo sull'isola di Manhattan dopo una strage di poliziotti che avete sentito anche nella clip. Si decide, questo poliziotto che, come dire, non deve chiedere mai proprio, decide di far chiudere tutta Manhattan da tutti i punti di vista per cercare nelle prossime 3-4 ore di prendere gli assassini. È un film, come dicevamo, puramente di genere, con una grande tensione proprio che si crea mano a mano in questa caccia all'uomo. Noi ne parliamo con Boris Sollazzo, che è con noi anche questa settimana, puntata abbastanza rivoluzionata dalla presenza di Pier Francesco Favino. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, 2 minuti per raccontarci questo City of Crime. Intanto bisogna partire dal titolo originale, 21 Bridges, perché sono appunto i 21 ponti che collegano Manhattan al resto di New York e che vengono chiusi, e questo già dà il clima e l'atmosfera di un'opera che ha nelle sue suggestioni visive sicuramente ciò che è migliore. Cioè, finché il genere qui è coreografato nel vero senso della parola, penso al funerale iniziale, penso alla prima sparatoria che è molto cruenta, al di là di quello a cui siamo abituati, penso anche alle scene notturne, regge benissimo. Il film è prodotto dai fratelli Russo e diretto da Brian Kirk. Perché lo specifichiamo? Perché dei fratelli Russo si sente la presenza in maniera massiccia, dal protagonista che è quello di Black Panther fino ai Mandi, al braccio violento della legge, che è uno dei loro film preferiti. E dall'altra parte Brian Kirk, che è un regista prettamente televisivo e che si vede anche nella scelta del cast, che è ottimo soprattutto nei comprimari, meno nel protagonista che non è molto espressivo, che tiene benissimo il ritmo finché c'è da raccontare qualcosa e che però poi non riesce a tenere benissimo le redini quando la sceneggiatura deve prendere il sopravvento, che è il vero punto debole del film. Il risultato è, come dici tu, un film di genere che si fa apprezzare per una buona parte forte del film, ma che non riesce poi a fare quel salto che tanti film di genere fanno in questi anni, che nascondono poi un cinema d'autore e rimane su una piattaforma strettamente commerciale, appunto molto più televisiva che cinematografica. In ogni caso questo tipo di film un po' mancano, perché spesso e volentieri si va altrove, e per gli amanti del genere è sicuramente una scelta che consigliamo. City of Crime, quindi, consigliato dal nostro Boris Sollazzo. Per invece un pomeriggio o una serata cinematografica più family, ci spostiamo insieme alle oche sulle ali dell'avventura. Quest'anno per le vacanze andrai da tuo padre a San Romano. È un mortorio, non ci resto. Vedi, questa specie di oca è a rischio. Quindi per salvarla sto studiando un nuovo itinerario meno pericoloso per farle andare fino in Norvegia. Ma per farglielo seguire devo indicare la strada. Ha dimenticato cosa le avevo detto? Non faccia uscire le oche senza la mia autorizzazione. Che cosa vuole? Forse vogliono portarle via. No, aspettate! Fermi, fermi, fermi! Tomà! E Tomà parte con questo aereo ultraleggero improvvisato costruito dal padre in questo film di Nicolas Vanier, appunto sulle ali dell'avventura, che racconta una storia di uomini e oche, no? Potremmo chiamarlo l'uomo, anzi gli uomini che sussurravano alle oche. Un ragazzo di città, genitori separati, va in campagna dove il padre, scienziato un po' mezzo pazzo ma visionario, vorrebbe reinventare un percorso migratorio per queste oche selvatiche che sono sull'orlo dell'estinzione, perché ostacolate dall'inquinamento luminoso, dalle città, dagli aeroporti, da tutto quello che la civiltà ha portato. Ebbene, sarà proprio Tomà, dopo un iniziale a prendere al balzo la possibilità, letteralmente, e a volare insieme alle oche. Boris, Nicolas Vanier, il regista di questo film, è uno specialista di cinema, intanto con gli animali, ma anche con la natura. Pensiamo al suo Il Grande Nord o Belle Sébastien. In questo caso c'è il rapporto padre-figlio dentro una storia che ha momenti di emozione altissima, soprattutto nelle riprese di volo con le oche, che sono straordinarie. Verrebbe da dire, visto diciamo il disprezzo tra virgolette che c'è per tutto quanto ciò che riguarda l'elemento umano all'interno del nostro mondo, che poteva chiamarsi anche meglio oche ma buone, ma al di là della freddura, come dici tu, è affascinantissimo questo film per la capacità tecnica di ripresa. Questo film nasce, doveva nascere come documentario e si vede soprattutto nelle riprese, perché la stabilità delle riprese in volo è qualcosa di quasi inumano, straordinario, e vale da solo il prezzo del biglietto. E poi c'è da parte di Vanier anche l'umiltà di riferirsi a due modelli. Uno è un modello politico, Tomà non può non ricordarci Greta Thunberg, cioè l'innocenza di un adolescente che vuole salvare il mondo costi quel che costi, sostanzialmente, e dall'altra parte un modello cinematografico molto forte, molto potente, che è quello del popolo migratore di Jacques Perrin. Non si arriva a livelli altissimi, perché poi la struttura commerciale è quella e rimane quella del family movie, quindi anche molto concentrata sul rapporto padre-figlio, sull'idealismo di questo padre che decide in qualche modo di rompere il modello capitalista con il suo ultraleggero, proprio perché è un family movie, però non va bocciato per le sue ingenuità, perché non parla a un pubblico prettamente adulto, anche se adatto al pubblico adulto, ma parla ai bambini, parla a chi nei Friday for Futures riempie le piazze per lottare per un mondo migliore, per lottare per un mondo che sia sostenibile, perché non venga passato il punto di non ritorno. E è vero che io non amo tantissimo, in generale non amiamo tantissimo i film con il messaggio, ma in alcuni momenti forse sono i film di cui abbiamo bisogno. Questo è un film piacevole alla vista ed è molto utile alla testa, e non si può dire di tanti altri film, quindi insomma io direi di volare su queste ali. Vogliamo insieme alle oche con sulle ali dell'avventura. Grazie Boris, ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, affrontiamo il nostro rush finale dopo tutte le novità in sala, riascoltando una breve clip del nostro game di 7 giorni fa. Anteriore destra, come voleva si dimostrare? Porco giudaccio infame! Vabbè, adesso comunque, senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina. E allora si trattava di Bianco, Rosso e Verdone, avete indovinato e partecipato in tantissimi. I più veloci sono stati Andrea Garbin di Visnadello, provincia di Treviso, e Michele Ammirati di Castrovilla, di provincia di Cosenza. Sono i nostri due vincitori del Blu-ray di Bianco, Rosso e Verdone, che ci facciamo raccontare in questa nuova edizione on video da Giulio San Giorgio, direttore di FinTV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Grande cinema popolare, siamo in un periodo di elezione, tre personaggi molto differenti per provenienza economica e culturale viaggiano lungo l'Italia per andare a votare nella città di residenza. È un road movie atipico, con gli alter ego di Verdone a briglie sciolte, Furio l'avvocato Pignolo e Logoroico, Pasquale De Mitrano, il lucano sgraziato, muto ma non per sempre, emigrante disadattato, e Mimmo, il romano ingenuo bamboccione, che è forse la maschera prediletta del regista. A fare faville sono anche i caratteristici di ferro del suo cinema, Mario Brega e la sora Lella su tutti, figure mitiche di una Roma di cui Verdone celebra il funerale in filigrana. Rivedetelo ancora una volta con questo DVD, perché se smette di farvi ridere non è un buon segno. Giulio, nel frattempo, mentre il Pinocchio di Garrone insomma funziona molto bene in sala, è sempre una buona occasione quella di rivedere il grande Pinocchio di Comencini. Succede domenica, domani alle 17 su Rai Movie. La storia del burattino la sapete tutti. Scritto da Collodi a 20 anni dall'Unità d'Italia, Le avventure di Pinocchio valeva come da motto d'azzegliano, da manuale per fare gli italiani. Una parabola su come diventare un bravo cittadino e rispettare la nazione nuova di zecca. Come ti chiami? Pinocchio. Sei proprio te. Comencini in questo film, che è la versione cinematografica di un film per la televisione, ne ribalta l'assunto, incarnando l'essenza punitiva in una fata turchina bacchettona sanzionatrice dello spirito ribelle di Pinocchio. La rivisitazione del regista si prende gioco della funzione educatrice dell'opera letteraria e la rifonda letteralmente in un bambino vitale, ribelle, un modello d'italiano figlio del dopoguerra che impara, sì, ma dai suoi stessi errori e sulla sua pelle. E Garrone, con il suo Pinocchio che tanto sta andando bene in sala, di questo insegnamento di sicuro si ricorda. Ebbene, allora, ricordiamo ancora domenica 12 ore 17 Rai Movie, Il Pinocchio di Comencini. Ciao Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana con i consigli di FinTV. E siamo giunti alla fine della trasmissione. Prima però di svelare il nostro film misterioso di oggi, vi ricordo che questa sera alle 21, nella trasmissione I figli di Enea, Valentina Furlanetto avrà ospite Maurizio Busso, o Busso, a seconda di come vogliamo pronunciare, niente meno che l'immigrato della canzone che ha fatto da trailer a Tolo Tolo di Checco Zalone, alle 21 questa sera, qui su Radio 24. Noi invece ci sentiamo fra 7 giorni, sabato alle 18, con La Rosa Purpurea. Oggi abbiamo giocato con C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, i vincitori. La prossima settimana, un saluto da Franco D'Assisi. Enea, raccontato da Virgilio, era un profugo che fondò Roma. E se è vero che la tradizione è spesso un'innovazione riuscita, un italiano a volte è uno straniero che ce l'ha fatta. Oggi i nuovi italiani sono quelli che vincono Sanremo o quelli che scendono in campo con la maglia azzurra. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 21 con I figli di Enea, storie di nuovi italiani. Naturalmente qui su Radio 24.